attenta, guffetta. Attento. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Chi è, chi è? Sono carabinero, so. Il boia, cazzo. Allora, tu sciabucco. Mi sto preparando. Per andare ai tiri. A mammoiata. Scaba. Quindi sei bella passeggiata oggi in montagna. Almeno ti compri il gelato. Gelato, magari. Con i soldi che non c'ho. Il tasanato che non ho capito nulla. Ho detto il gelato con i soldi che non c'ho. L'ha già pigliato sì stasera. Croccanti ho preso. Sono andato a pigliato a mangiare per il cane. Cazzo, mi sono dedicato i tramezzini, ma fanculo a me, che costano 65 centesimi. Adesso domani quando scendo da lì come piglio i tramezzini. E così sono a posto. E poi mi piglio qualche altra cosa, ma vedremo. Arrivato a un certo punto, meglio che le fai fuori quei soldi, eh. Ah beh, quello sì. Faccio fuori sì. Oggi ho fatto fuori altri 10, quindi dovrei esserci peso 30 euro, una cosa del genere, o 50, boh. Meglio così. Alle farmacie compro la crema per le stazionarie e me la metto nel pisello, così sollevo a cazzo 10 centimetri come la pubblicizzano, cazzo. No, ti devi prendere in farmacia, ti devi prendere altra cosa invece. Quelle che si mettono lì dietro, Le supposte? Quelle per la via anale. No, quella si chiama via rettale, no via anale. Ma quella da mille grammi, Cazzo, con quella mi si sciolgono anche le budella, cazzo. Oi, ragazzo. Per carità. Cosa c'è? Perché ti stavi sperando? È un caldo di nuovo, cazzo, che si muore. Non ho capito. Ho detto che c'è un caldo che è da crepare. No, c'è il vento adesso. Adesso c'è il vento. A parte il caldo che c'è, ma c'è il vento adesso. Si stanno volando dalla parte di Sosso e Signori, chissà che faccio un'altra passata come te di notte, cazzo. Adesso mi sto mettendo, devo mettermi le calze fantasmine. Hai visto? A Modena, cazzo, la grandine che è scesa, cazzo. Tutti grandi quanto una noce, cazzo. Ce ne sono pochi i venti sfasciati. È meglio così. Tutto al nord, meno male, in Inghilterra, tutta quella zona lì. Tutti. Con l'acqua alla gola, so. Joven, yo nací en el 85, así que soy de la generación ahí que esto, bueno, yo en concreto pues siempre he tenido radio, ahí en casa siempre ha habido radio, pero ya de la generación que esto, los pues eso, que no la usa tanto, no la usa tanto porque ya mi generación, pues eso, a los 16 o por ahí yo ya tenía móvil y bueno, lo mismo, ya cuando aparecieron los móviles esto cayó en desuso y bueno, pues ¿qué te voy a contar que no sepas? Pero bueno, a mí ya te digo, siempre ha habido y no lo voy a dejar esto porque es un hobby muy bonito y que con poco eres autosuficiente, no te hace falta ir mucho más. Coges una batería, un cacho alambre, un cacho palo, tu emisora y te pones ahí a comunicar sin depender de nadie. Eso es lo bonito de esto. ¿Qué está traslando? 2.25 arrivo. Spompo, qua stai traslando. Ehi, cazzo, la canale 35, 9.25 arriva questo qua. Vedi se dove si sente bene. C'è qualche cornuzzo. Uno spagnolo è su 35 in AM 27. Sta parlando con l'Australia. Va qua baracchione, lo c'ho a casa. Ah? Quindi dai, staccato il baracchino. Dai, usi solo il PMR. No, non l'ho staccato, l'ho prestato per fare delle prove. Se riesco a mettermi una base magnetica qua. Un'antenna. Se riesco a uscire. Non avere stazionarie. Un dipolo ti avrei provato l'altro giorno. Non ci vuole molto a fare un dipolo. Se ti compri il cavo, che lo faccio io, come il riposo. Ed è tranquillo. Che mani d'attacco? Non c'è uno stenditoio in quel terrazzino. Quando mai non c'è uno stenditoio per stendere la roba? C'è, ma c'è per stendere la roba. Vabbè, gli metti due stecche e glielo allunghi, non ci vuole molto, no? A procurare, gli fai un foro quasi alla fine, un altro foro e prendi una stecca da 50-60 centimetri e ti metti di pollo, ti metti. È meglio un pollo. Il pollo ci sa, era lo spì. Poi posso cunisci di gorra, se mongo di gorra. Sì, va, cosa che te ne fai, ne ricordo, non te ne fai niente. A meno che non ti do la staffa in alluminio, mi fai un buco in quella dove c'è lo stenditoio e ci metti la staffa in alluminio e ci attacchi ad andare alla macchina. Come io ci avevo pensato così, e funziona bene. Era 70 cm di lunghezza la stecca di alluminio, quindi a voglia che distante dalla... Fai il foro dello stenditoio, capito? Con un diametro per dire da 4 o 8 mm, come vuoi tu. Antonello. A me lo puoi uscire bene, come uscirebbe come Cristiano. Infatti ci metti davanti alla macchina che va di bene, vedrai che già non dovrebbe creare problemi. Antonello. E a José. Io ci sentiamo più tardi, dai, che tanto sto uscendo, devo per uscire, dai, ci sentiamo più tardi, ciao, a dopo. E vabbè, ci sentiamo più tardi, Giuseppe, buona passeggiata ai tiri. Mi stavo sciacquando la faccia, adesso vediamo, dai. Ma siccome si sta bene, c'è anche il freschetto. Beh, qua c'è il freschetto, questa, dove sono adesso? C'è il freschetto, sì. Vero? Si sta bene adesso, si sta, c'è il venticello, meno male. Oggi si sta bene, se fa come ieri sera, che stanotte ne scende un po', ne scende l'aria di colpo, tanto mi è bastata lì dei troni. Ma cos'era, grandine? No, non era grandine, era acqua normale, ma cazzo, le gocce grandi, larghe, sono state 5 cm di diametro. Icchiat! Ma tranquillo che se c'era stata la grandine mi sarebbe entrata dentro a casa, perché avrebbe spaccato i vetri, come minimo, quindi era mansata, capito? Ho capito. Lo sai che vento temperato, quindi è come tirargli la mazzetta, mi. Un chicco di grandine grande quanto la noce a quella velocità ti spacca tutto, ti spacca anche i cristalli della macchina. Qua dove sono io adesso, casa di alle 25, non posso lamentare d'estate. Certo, se allora di punta c'è caldo, però la notte si apre la porta a finestra, si sta da Dio, c'è anche coprire la notte d'estate, mi arriva quell'arietta fresca che ti deve anche coprire. Io non te l'ho dormito, no. Nell'altra camera ho dormito, perché c'era il vento in quella camera lì, capito? Poi alle 3, forse erano le 4, ho cominciato a sentire burù, tuoni, mi sono alzato e ho staccato tutti i piedi. Meglio prevenire che curare, cazzo. No, io nulla, manco l'altra della televisione, non ho sentito niente, nulla, se vuol dire niente. Allora, verso mezzanotte o le 11:30 stava iniziando a fare due gocce piccole, proprio invisibili quasi, sti fidi. E molta gente, forse qualcuno sta buttando acqua, ma ci stava avvicinando. E poi vista è arrivata tutta in una volta. E immaginati stasera quando se dovesse fare grandi il colpo dove c'è il quadrato, mica c'è il monitor grande per guardare la dinamo, non vedi gente fuggendo. Ma stanotte? Stanotte c'è la dinamo. Hanno messo il palco col monitor, quello grande di al quadrato. Ho capito. Sembra bene da a casa. Oh, anche parte, qua se vediamo. Stanotte se fa acqua così, vedrai come se ne fuggono dal quadrato. La di là se la guardano in macchina. Ma penso che il monitor lo levano, se no si rovina. Eh? Ho detto che il monitor lo levano, se no si rovina. Non ti ho capito, no? Sei arrivato basso, lo taglio compreso. Ho detto, se piove, come stai dicendo, il monitor lo levano, se no lo rovina. Io già lo credo. che lo levano, è veloce pure, lo levano. Se un monitor così si greba tutto, si greba. No, non ci sa Graziano, boh, Gio Maria. Gio Maria, Graziano, dormiti siete. Ieri sera c'erano verso le 6:30, 7, una cosa del genere. Sì, ce l'ho pure io. Ehi, cappello giù io. Sono sceso a bermi a quell'ora una birra fresca. Poi stavo andando controllando a vedere come fare il lavoro, perché devo installare l'antenna nel bar che c'è, capito, lì al rifornitore. Devo sollevare il palo e quindi devo agganciare col palo che c'è, devo agganciare un altro palo sopra, arrivare almeno 5-6 metri in più. E in pratica stavo controllando dove mettere i tiranti. Ma che barrero, ho capito? Quello che c'è qui al rifornitore di fronte all'hotel. Ah, e oggi lo devi fare? No, io ho detto ieri, tu sei tutto scemo che salgo stasera. Io ho detto no, ho detto salgo, ho detto alle 7, ho detto un altro giorno, io ho detto. Non ci salgo, io ho detto alle 4 di sera, ho detto sopra il tetto, ho detto in lamiera, tu sei tutto matto, io ho detto. Che non c'è la famiglia, non c'è la famiglia, la tintarella. Sì, la biglivona. E appunto per quello, siccome te tu la miera, quello che c'è nel rifornitore, capito? Quindi no. Come vai a toccare la miera, ti usci a cazzo le mani come minimo. Qui sto usando quegli antenini piccoli che sembrano la supposta praticamente. Mi senti bene, sì? Sì, che ti ascolto bene, a voglia. Ma ci sono gli antennini per questa frequenza qua, dai cinesi di fronte a Città Mercato. Non sai quanto ne stanno sventrando di quelle antenne. Un calascio, un anni. E quanto le vendono? Non lo so, penso che sia un euro, due euro. Guarda che quella lunga della Diamond, che è lunga quasi 70 centimetri, 80. Io l'ho vista su internet, costavano 80 centesimi l'una, costavano. E le ho regalate a Pinuccetto il Moro, perché cosa esco con una cosa del genere attaccata ai fianchi, no? Vi è male a usarla, capito, non fai antenne. Poi ci sono quelle antenne lunghe, ce li hanno. Non so se le voglio un euro, due euro. Sì, vabbè, bisogna vedere quanti sono. Ah, stanno a darci, di lì. Ci hanno anche portato di quelli di 16 canali, fanno VEU addirittura, 19 euro. E non sono meglio i Baofeng, lo paghi 20 euro in più, ma vai a radio però. E anche l'altra è buona, non è solo i Baofeng, il GEK mi pare si chiama. Di quelli ho preso due, funziona benissimo, hanno una ricezione di trasmissione che è bella. Se l'ha presi coso, Pinuccetto il Moro se li ha presi. E li sta usando per caccia, e vanno benissimo. Gli ho regalato le antenne più lunghe, in modo che imbatta di più, capito? Perché lui, loro vanno a caccia nei palloni, cose del genere. E a Giugavit. Caba, gli ho regalato tre di quelle antenne, ce ne avevo qua. Gli ho regalate, tanto non facevo niente, antenne lunghe io non le uso. Niente, io uso quelle corte, metto il portatile nel fianchetto, la cuffietta col Vox, in modo di poter lavorare bene quando stai facendo un impianto d'antenna, capito? Per non stare a prenderlo in mano o cosa del genere. Adesso questi giorni devo comprarmi un amplificatore, se ce l'hanno, di segnale, wifi, così almeno mi distribuisco il segnale di quell'antenna che ho comprato di fronte, capito? Cioè di fronte, dentro a casa, più che altro. E così sono più tranquillo. Adesso è agganciata solamente alla pennetta, quindi mi aggancio lì e vado ovunque. E voglio distribuire il segnale di quello di fronte, in pratica qui all'interno di casa, capito? Tipo ripetitore. Ma tu stai navigando gratis adesso? Eia, sto navigando gratis con il computer. Abbia da te un mago. E non c'è qualche scuola di fronte a casa tua? Cioè dove sei adesso? Non di fronte a casa tua, dove sei? Qualche scuola, qualche te privato, giardini pubblici magari che sono con wifi, non c'è nulla di lì. Lì all'ufficio di collocamento ce l'avranno il wifi, penso. Certo che ce ne sono vicino a casa, ma sono chiuse. Dove sei agganciati con l'antennino, una pernetta e l'aggancia al computer. Lo punti lì, basta che ti fai un giretto a piedi, mi. Conto lì dove c'è il wifi aperto, lì vicino a dove sei tu, e pigli e punti l'antenna lì, dal terrazzino ti aggancia. È piccolina l'antenna, non è neanche grande, l'ho vista su internet, l'ho pubblicata. Per 20 euro va benissimo, 10 metri di cavo e sei andente. E intanto è RG 59, mi pare che, perché è stata 5 monipotenza, quindi. Ho capito. E vabbè, comunque, alla fine, vabbè, sono già qualche anno, forse te 4-5 anni che me lo sto pagando, forse 6 anni pure, 80 euro ogni 2 mesi pago. No, io non ne pago più, è la vostra, pagavo 59 ogni volta. Poi appena magari sapevo che sbagliavi, che non pagavi subito, in 3-4 giorni immediatamente mi rompevano le balle, ho preso e ci ho mandato a fanculo. La Volafo. Prima di chiedere la Volafo c'è passata la Fastweb e poi la TIM. Perché è la stessa identica cosa. Ogni volta quando sbagliavi di un giorno a pagare, immediatamente ti rompevano le balle. Capito? E ti agganciavano per... dopo 3-4 giorni, quando volevano... beh, certo. Alla fine mi sono rotto le balle e mi sono lanciato al coso. Ma c'è comunque le reti aperte, ci sono, mi. Se ti fai un giretto col coso, il problema è che devi avere il codice per entrarci. Dovrebbe essere quella dell'ATP. C'è scritto rete aperta, c'è scritto. Però non c'è scritto né ATP né nulla. E arriva bene qua. Io ho fatto la prova, l'ho puntata lì all'hotel che c'è via Levante e arriva a segnale 5 quasi, quindi deve essere per forza qualche rete delle, capito, di quelli free, che deve avere tirando il codice, e una volta che c'è il codice c'è Navigate Gratis, capito? Ti chiede solamente l'SSID, quello diavolo si chiama, è buono, non ti chiede altro. Ma sai cos'è? Che mai stai scaricando, ma nel mentre che stai scaricando poi si disconnette, un casino. No. Ah, penso di no. E tutto da vedere, basta con quell'antenna lì, ti fai l'appunto di vicino a casa tua, ti fai fare il giretto così a mano, dove vedi i segnali aperti, pigli, la blocchi lì e li apposto. Tanto c'è lì vicino, c'è l'ufficio di collocamento, quindi per forza il wifi deve esserci per forza lì. E se non c'è quello ci sono le scuole. Ah vabbè, comunque se mi voglio collegare ce l'ho pure io wifi nel telefono, capito? Mi conta il telefono mio, voglio navigare. Se no c'è la mia 25, c'ha infiniti. C'ha tutto infinito, capito? E io ho capito. Va bene, dai, che... metto a fare il coso, dato che c'è un pochettino di fresco adesso. Devo fare un pacco batterie di un coso, di un portatile. Questo è uno Yaesu FT411E. Che mi avevano regalato, ne ho due, c'è la coppia. Uno l'ho già messo a posto, adesso cerco di mettere a posto l'altro, così almeno c'è la coppia e li utilizzo. Parte da 120 MHz fino a 170. Sì, se non mi ricordo male. Ho capito. Aggiugabit. Aspetta un po', dai, che mi assento, che tra un po' tanto dobbiamo uscire. E io, vabbè, sentiamo stasera, quando vi al limite. Ok, a dopo, ciao. Ciao, buon po'.